Pronto? Sì, ciao, sono io. Sì, sono quasi arrivato. Sì, ci ho messo poco, però è che non prende un cazzo. Sì, ah, bellissimo. Bello il mare. Sì, ha già rotto il cazzo, però, sto mare. Sì, è un po' troppo. Sì, torno presto, tranquillo. Chiudo quei due affari lì, quelli. Bravo, esatto. Compro quei due lotti. Faccio un'offerta per la porta che abbiamo detto sì, bra. Ma mi senti? Pronto? Mi senti? Senza bisogno di scuse, senza farti offrire qualcosa da bere. Dietro ai tuoi passi resta il mare, via. Senza più soldi da pagare, senza mai leggere il giornale. In cerca d'amore occasionale e socialismo tropicale. Le tue rivoluzioni, le storie ancora da raccontare solo per viaggiare con la fantasia. Su un'isola libera di essere un'isola, che fuori dall'isola siamo tutti un po' più fuori. Lontano dall'isola siamo tutti più. Dove tra gli uomini non basta il mare per mettere distanza. Ma cosa cerchi? Cosa vuoi? Guardati. Stai lì a passeggiare su un confine che non c'è più, o meglio, il confine c'è, ma l'hanno spostato più in là, oltre il mare. Bello, no? Le frontiere sono un problema. Allora le allontaniamo, le allontaneremo così tanto che qui non arriverà più nessuno. È il mercato che ce lo chiede. Se volessimo veramente risolvere il problema, i confini andrebbero aboliti, non trovi? Meglio così. Fidati, tanto siamo sempre lo straniero di qualcun altro. È meglio far girare l'economia che le persone, così l'opinione pubblica è contenta e siamo tutti felici, noi e loro. Adeguati anche tu e smettila di cercare il business dove ormai ci sono solo turisti e pescatori. Vai, vai a ballare, divertiti, divertiti, divertiti, che domani parti per la Libia.